Grazie Sergio, scrive al 333-180-9494. Intanto buongiorno, che nel brano che abbiamo ascoltato prima della pubblicità, interpretato da Etta James, At Last, c'è un disegno melodico che è stato ripreso in Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco. Tra l'altro, Legata a un granello di sabbia è una canzone bellissima. Conosciamo bene il tuo gusto, la tua competenza per quanto riguarda questi aspetti tra la canzone italiana e anche la musica in generale, quindi grazie Sergio per questo contributo e anche per questo spunto che mi hai dato per la playlist del venerdì, brano del buongiorno musica italiana. Grazie, buona giornata Sergio. Ho portato alcuni dischi di Jun Miyake, che è un compositore giapponese del quale ho diverse esecuzioni, in questo caso a proposito di esecuzione ma anche di interpretazione, come potete sentire dalle note, pur mantenendo un aspetto di tradizione c'è anche la presenza dell'exotica. Ascolteremo anche la presenza della bossa in un altro suo lavoro. E perché ho voluto portare questa colonna sonora? Perché vi è un'intersezione con la rubrica In mostra. Abbiamo presentato Yokai, le antiche stampe dei mostri giapponesi, a Palazzo Pallavicini, e a tale proposito vi è un collegamento con uno spettacolo che sarà, per quanto riguarda il teatro Arena del Sole, dedicato, intanto è questa sera e il 1° luglio, cioè oggi e domani, primo spettacolo ore 18, secondo spettacolo alle ore 21, Life of Hokusai, la vita di Hokusai. Chi era Hokusai? Un pittore tra i più rappresentativi, forse il più rappresentativo, proveniente dal paese del Sollevante. Anche sulle stampe le pitture di Hokusai tempo fa abbiamo portato nella rubrica In mostra delle monografie, delle retrospettive, l'immagine più riconoscibile, la famosa onda, no? Interpretata da Hokusai. Questo ed altro ovviamente, ma per quanto riguarda la maggior diffusione e ricordiamo l'aspetto di questa iconografia e di questa immagine. Come sarà interpretata la vita di questo folle genio che si reincarnò in un drago? Magari lo troveremo in uno spettacolo di performing art per questo 260esimo anniversario della nascita dell'artista giapponese Hokusai. Vi ho parlato anche di sonorità in bossa nova, oltre che in exotica, di Jun Miyake. Avremo modo di ascoltarle in questa ultima parte della rubrica In scena nella playlist del Breakfast Club. E dopo qualche breve informazione, per riportarvi anche alla rubrica in mostra, dove abbiamo trovato le stampe dei mostri giapponesi yokai a Palazzo Pallavicini, e tornando invece alla rubrica in scena, dove una continuità di cultura dal sollevante ci porta alla vita di Hokusai. La data è questa sera e domani sera, primo spettacolo alle ore 18, secondo spettacolo alle ore 21, e ovviamente abbiamo la voce dell'app o di una dei protagonisti per quanto riguarda questo lavoro, e qui con noi Erika Rossi. Buongiorno Erika. Buongiorno a tutti, buongiorno William, buongiorno a tutti. Bella mattiniera con voce squillante, questo ci fa molto piacere. Allora, ah sì, io sì. Anche perché alla mattina sai bene che vigilia di weekend che inizia con la vita di Hokusai, il folle genio che si reincarnò in un drago. Già così partiamo subito con un grande motivo di curiosità, e ovviamente per assistere a questo spettacolo di performing art per il 260° anniversario della nascita di Hokusai. Ci puoi dire qualcosa di più? Intanto è una cosa molto particolare, per le ricorrenze, per portare diversi personaggi. Avete deciso di portare la vita del pittore, dell'artista giapponese più rappresentativo. Ci puoi dire qualcosa di più, Erika? Certo, certo. Anzitutto grazie dell'opportunità. Ecco, la vita di Hokusai parla appunto di questo grande artista giapponese, questo genio vissuto 260 anni fa, in quella che in Giappone era l'epoca Edo, l'epoca Tokugawa, forse quella che tutti conoscono per le stampe, per i samurai, ecco, un po' nei film forse anche la più rappresentata. E Katsushika Hokusai all'epoca era un personaggio già famoso, ma divenne in realtà molto più famoso dopo la sua morte, con tutte le opere che conosciamo. Forse la più famosa in assoluto, che non necessariamente la gente collega al suo nome, è quella della grande onda, quella grandissima onda blu che travolge le barche, il Monte Fuji. Ecco, questa, quella per esempio, è un'opera dell'autore, di Katsushika Hokusai, solo che questa volta l'abbiamo portata a teatro. Anzitutto non c'è dialogo, per cui abbiamo deciso di farne un'opera. Abbiamo deciso, in realtà il nostro coreografo, sceneggiatore, protagonista, Sakakura Katsumi, che è una personalità nell'arte del Gebu e della danza giapponese, dell'arte marziale giapponese mescolata con la danza, ecco, questo è il suo stile performativo. E allora, visto che lui è partito da questo presupposto, devo raccontare la vita di un genio dell'arte, eppure io non sono un artista grafico, sono un ballerino. Allora cosa ha fatto? Ha riprodotto sullo scenario con il corpo quello che la mano Hokusai faceva con quello che Hokusai faceva con la mano, quindi con i suoi disegni. E soprattutto perché è uno Hokusai visto da un punto di vista molto molto umano, perché in realtà parla della crisi esistenziale di Hokusai dopo la morte della moglie, perché Hokusai era un tipo assai burbero, non amava il contatto con la gente, e quando andava per strada si copriva il capo e mormorava frasi incomprensibili per far pensare alla gente intorno a lui che fosse un pazzo, e quindi per evitare che la gente gli si avvicinasse faceva un po', ecco, queste cose. Anticipato i tempi per quelli che con gli auricolari fanno finta di parlare, vedi? Lui ha anticipato. Per me Hokusai era un grandissimo, ho presentato, esatto, delle sue mostre, mi sono permesso di anticipare La Grande Onda, che è l'opera più rappresentativa, tra certo, l'altro. Certo. Sì. Lui, oltre il fascino dell'aspetto, tra l'altro in Giappone le grandi opere d'arte non venivano dalle famiglie più abbienti esposte, ma erano ricordi. Venivano così posate, non dico nascoste, ma tenute come ricordi. Non era per motivo di vanto, per motivo di dire guarda che bel lavoro che ho io, guarda come mi posso vantare delle mie possibilità, che certamente è quanto mai giustificato e ci mancherebbe, però vi era veramente un aspetto più intimo, venivano conservate come ricordi e come preziosi doni, insomma. Scusa queste divagazioni che mi affascinano. Certo. No, anzi, e direi di più, io andrei ben oltre questo, che gli ukiyo-e e tutte le stampe non erano di alcun valore artistico per l'epoca, era la diffusione di storie. per cui essendo la stampa assai diffusa in Giappone si distribuivano anche per prezzi non troppo alti, e quindi se mai avrete l'opportunità di comparare uno ukiyo-e stampato in Giappone, però conservato in Giappone, uno conservato all'estero, vi renderete conto che la conservazione degli ukiyo-e dei musei di Boston, piuttosto dei collezionisti privati italiani, per esempio, se ne trovano tantissimi, li vedrete in mostra a Pallavicini se avrete l'opportunità, sono conservati benissimo, direi molto molto, e non lo dico solo io, lo dicono gli esperti, molto meglio di quelle che si trovano in Giappone, perché appunto in Giappone la gente li leggeva per strada, in casa, il valore dell'ukiyo-e delle stampe giapponesi salta agli occhi dei giapponesi dopo che gli occidentali ne hanno fatto man bassa, che si sono resi conto che in realtà personaggi come Hokusai avevano cominciato ad influenzare anche grandissimi personaggi come Van Gogh. Theo nella sua lettera a Vincent gli scrive di questo artista, di Hokusai, per cui direi che siamo veramente di fronte a un genio. Io consiglio a tutti questo spettacolo perché è una visione molto umana. Preparati i fazzoletti, perché ieri abbiamo fatto le prove generali per i giornalisti e i critici e sono usciti in lacrime. È uno spettacolo, dura poco, un'ora, ma denso di emozioni, veramente denso di emozioni. Il fatto che non ci siano le parole, ci sia la voce Yasuko Fuji, che forse in Italia è conosciuta perché partecipa alla trasmissione anche avanti, è una cantante d'opera lirica molto famosa, però partecipa anche in televisione in Italia, però lei con la sua voce per esprimere il dolore di questa della donna, della moglie di Hokusai, che si sente rifiutata dal marito perché lui la tratta malissimo, poi si pente quando lei muore, si rende conto che in realtà ha perso l'occasione di poter dire alla moglie quanto l'amava e quanto le era grato per averlo sostenuto durante tutta la sua lunghissima carriera, perché ricordiamo che Hokusai muore alla veneranda età di 90 anni, in un'epoca in cui l'età promedia era tipo 40-43, per cui esatto, qui questa è una storia d'amore in realtà, anzi direi di più, la storia dell'opportunità mancata di dire alle persone che ami l'affetto, di dimostrare che con parole, verbalmente, di dire alla persona che ti sta accanto quanto la ami, quanto le vuoi bene, può essere la figlia, il padre o la moglie. E penso che questa dimensione umana in realtà sia molto diffusa, forse ci è successo di aver perso l'opportunità di dirlo quando era il momento. Ecco, è un po' questa storia, ovviamente dal punto di vista dell'artista di Hokusai, per lui fu poi l'occasione per generare la sua grandissima opera, quella del drago volante sul monte Fuji. Non vado oltre, però veramente se avete un'ora, siete qui a Bologna, veramente consiglio a tutti di vedere lo spettacolo, anche a chi non conosce nulla di Hokusai, perché è stato pensato questo spettacolo per trasmettere emozione a un pubblico generale, non è stato pensato per gli specialisti settoriale. Certo, intanto io aggiungo che la motivazione di poter esplicitare sempre comunque l'affetto, il sentimento, il voler bene, l'amore, sarò ovviamente il solito sentimentale, ma lo ribadisco, fatelo Bravo. Sempre e comunque, non sentitevi banali, e se venite trattate o trattati come tali, pazienza, sta perdendo un'occasione chi banalizza questa vostra dichiarazione d'amore, per cui veramente non fate in modo che sia troppo tardi e non perdete occasione per esprimere, ovviamente coi fatti è anche indispensabile, oltre ci mancherebbe, ma anche esprimerlo con gesti e parole è indubbiamente qualcosa di fondamentale nel poter comunicare stima, amore, sentimento e quant'altro, e chiaramente questo spettacolo ha anche questo contenuto, per cui molto molto interessante, consigliatissimo anche dal Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Come ho già detto prima, abbiamo un format al giovedì che parla di arte e di esposizioni, Hokusai ne è stato protagonista, come è stata protagonista la mostra bellissima a Palazzo Pallavicini. Ora vi è una rispetto una frangia di tutto ciò che va a teatro con una performance atipica, mi permetto di dire, da queste parole di descrizione che tu hai dato, ed è ovviamente nelle giornate di oggi e domani al Teatro Arena del Sole, il primo spettacolo alle ore 18, il secondo spettacolo alle ore 21. Erika, è stato un piacere parlare con te, guarda. Il piacere è stato mio, grazie dell'opportunità e spero di vedervi. Fate, chiamatemi che sono lì. Certo, grazie okay. Ancora. Buona giornata. Ok, buona giornata. E ciao a tutti. Cusai. Ciao. Sì, ciao. Ciao. Cheguei, apri o jogo e assim desfiz o ângulo que tive. Chutei sem ver, desfeito pelo vento e outros ventos. Depois triplei sem bola, porém também sem ter surpresa. Posizione al pianoforte, la voce di Arto Lindsay. Termina qui la nostra settimana, ovviamente salutiamo il mese di giugno, l'appuntamento sarà, adesso faccio un po' di conti, lunedì 3 luglio per l'ultimo mese di Breakfast Club, la prima colazione in diretta per quanto riguarda il 2023, ci risentiamo poi ovviamente a settembre, ma non corriamo troppo avanti, avremo modo ovviamente di passare la settimana avventura assieme che inizierà con i Magazine. Questo disco, che è semplicemente meraviglioso, si intitola Innocent Bossa in the Mirror. Tante le collaborazioni, avete sentito la voce di Arto Lindsay, la produzione e l'autore è Jun Miyake. Grazie per l'attenzione, per oggi è veramente tutto, la ricca puntata in scena si termina qui e tra poco avremo l'Edipeo enciclopedico, a seguire Liberi Dentro e poi con Alfredo Pasquale e Emanuela Bassi la rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Augurandovi un buon ascolto e anche ovviamente un buonissimo weekend e mattinieri, vi aspetto per la giornata di lunedì, il primo lunedì del mese di luglio, per una prima colazione in diretta assieme con il Breakfast Club e dal vostro William Piana. Un buon ascolto e una buona giornata. Ciao a tutte, ciao a tutti!